testa, col sussurrar dell'onde, col sussurrar dell'onde, e le dita è confonde, e le dita è confonde, confonde cielo e mare, e cielo e mare. La fata tempesta, la fata tempesta, col sussurrar dell'onde, col sussurrar dell'onde, e la dita è confonde, e la dita è confonde, confonde cielo e mare, e cielo e mare. Sussurra dell'onde, ed agita e confonde.